La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati alla Rosa Purpurea, l'appuntamento settimanale con il cinema di Radio 24. Io sono Franco D'Assisi e questo è il menù di giornata. L'amore nell'autunno della vita. Annette Bening e Bill Nighy, protagonisti di Le cose che non ti ho detto, disponibile a pagamento sulle principali piattaforme, dallo sceneggiatore di Il Gladiatore e I Miserabili. E la settimana di Annette Bening si completa con il suo ruolo in Georgetown, esordio alla regia di Christoph Waltz con una splendida Vanessa Redgrave. Un Cyrano in salsa queer è L'altra metà, originale Netflix di Alice Wu, a disposizione in abbonamento sulla piattaforma della N Rossa. 90 anni di un mito, Clint Eastwood fa 90 e guarda ancora al futuro. Ripercorriamo nella carriera dagli spaghetti western a Richard Jewell. Ingmar Bergman su Amazon, dal settimo sigillo al posto delle fragole, 5 film del maestro svedese visibili sulla piattaforma di Jeff Bezos, a partire da Monica e il desiderio. Sono già stato qui, il suono di un sospiro. Già sei stata mia prima d'ora. Ciao straniero, ciao mamma. Ciao straniero. Ciao mamma. A volte penso che non parliamo noi due. Parliamo in che senso? Sì, parlare come fanno le persone. Nostra cavalcata fra il meglio del cinema in streaming di questa settimana comincia con Le cose che non ti ho detto. Protagonisti Bill Nighy, lo ricorderete, quasi irriconoscibile nei panni del mostruoso Davy Jones dei Pirati dei Caraibi, e Annette Bening, 4 nomination agli Oscar, fra cui American Beauty. Edward e Grace, i loro personaggi, sono una coppia sposata da 29 anni, il cui ménage si trascina stancamente fra gesti meccanici e la ritualità del quotidiano. La loro casa di Seaford, sulle coste meridionali inglesi, è perfetta e gronda cultura da ognuno dei libri che gremiscono gli scaffali, e paziente buonsenso da ogni tazza di tè fumante che viene preparata in automatico al rientro a casa. Tra una settimana facciamo 29 anni di matrimonio. Sì, direi proprio di sì. Hai qualcosa in mente? Cosa vuoi dire? Andiamo fuori a cena? Se è questo che vuoi. No, affatto. Ah, no? No. E allora niente, cena fuori. Per l'amor del cielo, Edward. Ho detto qualcosa di sbagliato? Ma io dico, andiamo fuori a cena per il nostro anniversario e tu dici se è questo che vuoi e io dico no, affatto. E allora non andiamo, dici tu. Ma io voglio andare fuori a cena per il nostro anniversario. Perché te l'avrei suggerito? E allora perché dici che non vuoi? Perché non lo voglio fare, perché lo voglio fare io. Lo voglio fare perché lo vuoi fare tu. Grace non ci sta più, vuole una scossa, ma imprevedibilmente è il sin lì remissivo Edward a dargliela. Una mattina le comunica che dopo quasi 30 anni e a 60 suonati è tempo di ripartire. Edward molla tutto e se ne va. Io voglio andarmene. Da qui? Sì. Per andare dove? C'è un'altra persona. Un'altra persona? Mi dispiace. Come sarebbe un'altra persona? Quale altra persona? La madre di uno studente. Non la conosci? Quale madre di uno studente? Cosa? Si chiama Angela Walker. Non volevo che succedesse, è stato un incidente, ma è successo. Un incidente? Come è stato un incidente? Avrei dovuto dirtelo prima. Ma non è un incidente. Lo stai facendo. Ho preso la mia decisione. Beh, dovrai decidere altrimenti, invece. Questa decisione coinvolge anche me. Devi consultarti con me. Non fare così, Grace. Peggiori solo le non cose. Non puoi solo prendere e andartene dopo 29 anni. Devi tentare. E ho tentato. Per 29 anni. Grace, presa in contropiede, implode in una crisi profonda. Sarà il figlio Jamie a trovarsi nella scomoda posizione di cuscinetto, soprattutto per Grace, e a sopportare il peso di una situazione imprevista e traumatica. L'autunno della vita è stagione sempre più frequentata dal cinema, vuoi anche per l'innalzarsi dell'età media degli spettatori. Una stagione che dovrebbe avere il profumo rassicurante di una tazza di tè e i toni morbidi del sottobosco, ma che in questo film, pronto da un po' e ora disponibile a pagamento sulle principali piattaforme come Chili, Rakuten e CG Entertainment, si infiamma di tinte forti, il rosso della rabbia, il nero della sconfitta. Cosa succede a un amore che finisce quando nessuno se l'aspetta? È quello a cui cerca di rispondere William Nicholson, uno che, come i suoi protagonisti, a 72 anni ha diretto il suo secondo film, dopo una carriera da sceneggiatore di rango, sua la firma sugli script di film come Il Gladiatore e Les Misérables. E la risposta è che l'amore finisce, o almeno spesso è così, e se in un matrimonio non prevalgono altre componenti, la stima, la complicità, l'affetto, chi ti è di fronte diventa solo un fastidio. Allora è meglio dividere le strade, anche a 60 anni. Salutiamo Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ciao Boris. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Boris, il nocciolo di Le cose che non ti ho detto sta tutto in quel suo titolo originale, Hope Gap, ovvero divario di speranza. Il divario che c'è fra gli sguardi di Edward e Grace sul loro matrimonio. Bill Nighy e Annette Bening sono attori straordinari e riescono forse proprio grazie alla loro classe a tenere in piedi un'opera che ha tempi e modi quasi teatrali. Sì, Franco, potremmo dire che tutti i titoli di questa storia raccontano un pezzo di questa storia, perché è anche l'adattamento teatrale dello spettacolo Ritirata da Mosca, che è quella ritirata che avvenne tra il 1812 e il 1813, dopo la campagna napoleonica in Russia, di cui parla il protagonista maschile, colui che scappa, tra virgolette, nella sua ultima lezione prima del fattaccio. E in quel frangente, in quella ritirata da Mosca, ci furono persino situazioni molto complesse, molto difficili, anche storicamente insopportabili e dolorose, per esempio i commilitoni che attaccavano il cadavere del proprio compagno per salvare la propria vita, per prenderne i cappotti, per spogliarlo, esattamente come succede a un amore che finisce e che viene brutalmente messo alla berlina del tempo, all'insulto delle intemperie. È una metafora straordinaria che a teatro rendeva in maniera potentissima, ma che trova anche qui una realizzazione profonda. Questo perché? Perché ci sono due attori straordinari, come Annette Bening, che mette tutta la sua espressività, tutta la sua passione, tutta la sua anche follia emotiva in campo, e Bill Nighy, che al contrario mette quell'aplomb britannico al servizio di un personaggio che è riuscito a sopportare per 29 anni il gelo dei propri sentimenti, che a un certo punto, di fronte in qualche modo alla beffa di chi pretendeva e voleva qualcosa in più, decide di mollare tutto. E la cosa interessante e anche autobiografica è questa figura di Jamie, che ha un po' il difetto di essere semplicemente testimone. Forse avremmo voluto sapere di più di lui, avremmo voluto più sentire qualcosa della sua formazione, però è anche vero che il suo essere specchio della madre, cioè il suo chiederle di essere forte per darle forza, è molto filiale, è molto profondo. Il rapporto tra madre e figlio, in cui forse lui diventa anche genitore, diventa qualcosa di molto motivante per il film. Il regista si dimostra uno sceneggiatore di razza, il film è scritto benissimo nei dialoghi tra madre e figlio, è scritto benissimo nel personaggio di Bill Nighy, che pur essendo sfuggente come nella sua caratterizzazione ha una forza enorme come propulsione del racconto, e ha una struttura teatrale e una struttura narrativa estremamente classica, estremamente lineare, ma comunque mai priva di ritmo e mai incapace di coinvolgerti e di prenderti. Detto questo, quello che rende il film Le cose che non ti ho detto un film da vedere è sicuramente Annette Bening, che riesce a tenere sulle spalle un'opera di cui abbiamo già visto le stimmate nel genere, appunto, della terza età o dello sguardo verso la terza età, di cui abbiamo già visto le stimmate nella ricerca disperata di un amore che sta morendo e di resuscitarlo, comunque di vendicarsi contro di esso, ma che gli dà la propria firma, che è unica, col proprio talento interpretativo. E questo era Le cose che non ti ho detto, a pagamento sulle principali piattaforme. Adesso viabilità, fra poco torniamo. Esordio alla regia per Christoph Waltz, lo ricorderete, attore tarantiniano di Bastardi senza gloria e Django Unchained in Georgetown, fra poco. La rosa purpurea. Perché è uscito la notte in cui sua moglie è morta? Per fare una passeggiata. Sei in ritardo. Non ha fatto che inventare. Lei non lo sa, neanch'io lo so. Lui finge, è ovvio. Tutto quello che dice è una bugia. Lo sai che potrebbe essere mio fratello? Quanto potrebbe valere a casa? $1,000,000? Probabilmente di più. E a lui spetta anche quella? Sì. Insomma, sono in arresto, non al momento. Lei l'ha usata, i suoi soldi, le sue conoscenze. Lei mi ha dato quello che mi ha dato per amore. Lei mi ha donato coraggio e fiducia in me stesso. Io le devo ogni cosa. La diplomazia è l'arte di mandare la gente all'inferno in modo tale che ti chiedano le indicazioni. Così Winston Churchill bollava il mestiere del diplomatico, quello che amava e a cui ambiva Ulrich Mott, tedesco dalle oscure origini, trapiantato in America quasi cinquantenne, col sogno di sfondare in quegli ambienti fra ambasciatori, ricevimenti, Nazioni Unite e charity dinner. E a quel personaggio, Albrecht Mutt, che diventa Ulrich Mott per il cinema, è ispirato Georgetown, esordio alla regia di Christoph Waltz. Che poi è anche un po' la sua storia, da austriaco con cittadinanza tedesca, che faceva capolino in alcune puntate di Derrick e il commissario Rex, a Oscar per il dottor Schultz del tarantiniano Django, fino all'esordio alla regia con questo Georgetown, ora disponibile a pagamento sulle principali piattaforme. Secondo lei come ha fatto? Non ne ho la più pallida idea. Come ha conosciuto Mott? Tutti conoscono Ulrich a Georgetown. Si è reso indispensabile per noi all'ambasciata. No, indispensabile non è la parola giusta. Si è reso impossibile da ignorare. Immagina, Lawrence d'Arabia con un Blackberry. Hai conosciuto sua moglie? Non sapevo che fosse sposato. Oh, ma certo che è sposato. Questa è la casa di lei. Ma grazie. Dov'è lei, Elsa? No, che ne ha. Strano che lei non sia qui. Ulrich Mott abita in una splendida brownstone del quartiere di Georgetown, Washington D.C. La casa, in realtà, è della sua anziana moglie, Elsa, giornalista, tedesca come lui, ma 91enne. Ulrich, a rivista Scaltro e Galante, l'ha conosciuta a un ricevimento diplomatico, nel quale si era imbucato rubando il badge di riconoscimento al funzionario della Casa Bianca per il quale lavorava come stagista. Poi l'ha sposata e ne ha usato l'agenda per scalare gradini impossibili nella scala sociale per un carneade come lui. Una sera, dopo un ricevimento nel quale, come al solito, ha monopolizzato l'attenzione, Ulrich esce per fare una passeggiata. Al suo rientro, Elsa è morta. E il principale accusato sembra essere proprio lui. Signor Mott, sa che cos'è? Sì, lo so, è una denuncia penale. Esatto. Una denuncia che sua moglie aveva presentato contro di lei. Vuole dirci qualcosa riguardo a questo? Si riferisce a un incidente accaduto a New York City qualche tempo fa. Quel giorno avevamo discusso, mia moglie e io, una cosa che, sebbene dolorosa, è imbarazzante. Non era anomala, dato che sorgono diverse discussioni fra persone passionali e sposate da tanto. Una cosa che ha scatenato una crepa nel nostro matrimonio, poi riparata con nostra grande felicità dopo 2 anni di lontananza molto difficili. Beh, alla luce di questa storia e alla luce del fatto che non c'è prova di intrusione, questa diventa ufficialmente indagine per omicidio. Ah, capisco. Insomma, sono in arresto. Non al momento. Comunque abbiamo ottenuto un mandato per sigillare la sua casa in attesa delle indagini della scientifica. Non può tornarci. E le dobbiamo chiedere di non lasciare Washington. Christoph Waltz gigioneggia un po' nei panni di Ulrich Mott, peccato non poterlo sentire in originale nemmeno sulle piattaforme, almeno così è stato su Cili, ma il digitale non dovrebbe servire anche a questo. Annette Bening, seconda presenza questa settimana, è la figlia naturale di Elsa, praticamente coetanea del suo patrigno Ulrich, che mal sopporta. Vanessa Redgrave, con la sua classe, è l'anziana protagonista che cerca di vivere l'ultimo lampo di vita accesa e innaffiata da questo truffatore, un po' Billy il bugiardo, un po' il Norman di Richard Gere. La regia è molto classica, direi teutonica. Niente fronzoli, niente colpi d'ala, ma una narrazione solida e attenta, fatta di continui flashback a capitoli, che prende le mosse da un articolo sul vero Albrecht Gero-Muth, pubblicato dal New York Times, e intitolato «The Worst Marriage in Georgetown». Ritroviamo Boris Sollazzo. Boris, come valuti questo esordio alla regia di Valls? Lo valuto in maniera assolutamente positiva perché dimostra che Valls è una spugna straordinaria che riesce ad apprendere tutte le lezioni di tutti i grandi con cui ha lavorato, da Tarantino a Polanski, mettendoci una spolverata pesante di teatro che è il luogo, la palestra in cui lui si è formato ancora prima del successo. A questo va detto che, come un ottimo allenatore quasi, ha una capacità di tenere la macchina cinema, di tenere le redini, le briglie di questa macchina impazzita che è il cinema, in maniera molto intelligente, e anche di utilizzare i propri colleghi al meglio. Penso ad Annette Bening, che qui ha un ruolo che ha poche pose ma una grandissima efficacia, gli occhi feroci con cui cerca di indagare attraverso gli altri la vita del proprio patrigno, anche se sembra difficile, strano chiamarlo così nel momento in cui hanno la stessa età, dicono molto di più di tante altre scene in cui sarebbe stata forse eccessiva da guardare. Vanessa Redgrave è clamorosa, è straordinaria nel suo essere allo stesso tempo dolce e tenera nelle richieste di attenzioni, ma anche di un carisma straordinario, talmente carismatica che ci dimentichiamo che non c'è così tanto nel film, e un po' ci manca, perché probabilmente il rapporto tra i due avrebbe reso grandi, ancora più grandi, le stesse interpretazioni. Ed è forse questo l'unico piccolo difetto di Georgetown, che è una macchina perfetta sia in scrittura sia in interpretazione, che è la volontà di Walls di rischiare attraverso la storia, che tra l'altro è una storia vera, realmente accaduta, è adattata dallo sceneggiatore Daniel Hawthorne in maniera mirabile, senza prendersi reali rischi, cioè facendo tutto quello che potevamo immaginare e costruendo attorno a sé un personaggio che lui possa indossare senza nessun disagio, un personaggio che è come tanti altri che abbiamo visto, anzi è la somma di tutti quelli che abbiamo visto in lui, un po' cialtrone, un po' geniale, un po' bugiardo, un po' carismatico, un uomo che è l'attore della propria esistenza talmente tanto da non sapere più dove sia la verità e dove sia la bugia, e a un certo punto non lo sappiamo neanche noi, ed è sicuramente nel genere la cosa più efficace che costruisce in regia, il lasciarci anche nell'incertezza. Il film diventa a un certo punto pirandelliano ed è il momento più profondo e più autoriale. Forse, ecco, Walls avrebbe dovuto rischiare di più, è vero pure che ci regala delle interpretazioni di scuola straordinarie come esordio, insomma, ad avercene di questo tipo. Georgetown, quindi, su tutte le principali piattaforme a pagamento. Noi siamo arrivati al momento in cui giocare insieme con la prima traccia del film misterioso, e oggi è davvero un gran film misterioso, del nostro DVD game. Jessica, figlia unica nell'Illinois a Chicago, ero nella stessa classe di tuo cugino. Se avete già indovinato di che film si tratta, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Ci sono due Blu-ray di questo film che vi aspettano fra poco. Vi facciamo ascoltare una altra traccia. In a minute since we've been here, I'd be wrong to say that I don't need you now or need a friend. Oh, it's nice to spend time with you. Se, come diceva Platone, l'amore è il nome che diamo al desiderio di essere uno, per un adolescente l'amore è anche mistero insondabile, obiettivo irraggiungibile, soprattutto se, ancora oggi, l'amore ha il tuo stesso sesso. Ellie Chu, americana adolescente di origini cinesi, è brava in tutto, nella musica come nello studio. A scuola è una nerd molto richiesta, vende a $20 i compiti di letteratura e aiuta così la famiglia a pagare le bollette. Ellie fa chilometri in bicicletta per andare al liceo. Dalla ridente si fa per dire Squamish. Un giorno viene raggiunta e buttata maldestramente a terra da un ragazzo ansimante. È Paul, innamorato di Aster, bellissima compagna di entrambi, alla quale però non sa trasmettere il suo sentimento. Gli mancano le parole. Allora chiede a Ellie di scrivere per lui lettere d'amore, novella Cyrano, ignaro del fatto che Aster sia oggetto del desiderio anche per Ellie. Quando sei carina, le persone ti fanno regali. A te starebbe benissimo. Quello che vogliono. Oh, è che tu sia come loro. Grazie. Non perché loro apprezzino te, ma perché apprezzano che tu sia come loro. A te starebbe davvero bene. Oh, tu intendi adesso? Quindi sono come le altre. Il che mi rende nessuno. Cuore sollazzo, delicatezza e anche assenza di retorica sono le caratteristiche di L'altra metà, film originale Netflix diretto da Alice Wu, 50 anni, che già nella precedente unica regia, Saving Face, aveva affrontato le tematiche omosessuali al femminile, in quel caso fra due donne mature, qui nei turbamenti di un adolescente. Bella la caratterizzazione dei personaggi. Aster, l'oggetto del desiderio, è bella ma anche intelligente, sensibile e colta, mentre di solito quel tipo di personaggio è descritto come frivolo e superficiale. E ancora Ellie, la protagonista, è una nerd ma tutt'altro che una sfigata, come potremmo dire. Insomma, la bravura di Alice Wu è quella di tenere il film al riparo delle tentazioni di teenage movie commerciale. Fotografia perfetta. L'altra metà ha tutti gli schemi della commedia sentimentale per teenager. Lo sfigato, la sfigata, la bella della scuola, la scuola come gabbia in cui dover sopravvivere per 5 anni, il gruppo delle cheerleader, c'è tutto quello che serve in una commedia sentimentale. E apparentemente ci sono anche tutte le battute, tutti i dialoghi che in quel contesto sono più efficaci. Il punto è il modo in cui la Wu muove i pedoni sulla scacchiera. E qui ci ritroviamo dalle parti di Noi siamo infinito, dalla parte di tre outsider che in parte non sanno di essere outsider, perché la ragazza cool della scuola è in realtà un intellettuale, una ragazza che ha una profondità e una sensibilità, la ragazza che non conosce bene la propria identità e che ha una storia difficile, è una ragazza che però ha un umorismo esilarante, è di un'intelligenza superiore, sa essere politicamente scorretta. E l'imbranato, lo sfigato, è in realtà un ragazzo che ha una sua bellezza emotiva, interiore. È sì goffo forse nel parlare, ma alla fine per vie tortuose è l'unico che fa la cosa giusta al momento giusto sempre, anche se ne è inconsapevole. E questa è la forza di questa commedia, che inevitabilmente conquista anche oltre il proprio target e che allo stesso tempo lavora davvero in una prospettiva gender, perché tu per tre quarti del film non hai bisogno di sapere chi ama chi, si metterà con chi, ti sembrano tutti normali i sentimenti, ti sembra normale il sentimento di amicizia tra Cyrano e il suo e la sua cavia, tra virgolette, ti sembra normale che possano essere amiche anche le due ragazze, ti sembra normale che possano mettersi insieme, ti sembra normale anche che sia pure tramite un iniziale inganno ci possa essere una storia etero tra l'uomo che si fa aiutare per scrivere lettere d'amore e la ragazza bella e intellettuale. È proprio questa la forza, non è importante il sesso dei protagonisti, non è importante la loro relazione, è importante quello che sentono gli uni per gli altri. In questo senso, per esempio, Noi siamo infinito è un ottimo punto di riferimento per questo tipo di racconto, anche se non ha la serietà con cui si prende Noi siamo infinito, pur avendone la bellissima colonna sonora, penso a un pezzo di Chicago e a tanti altri pezzi molto interessanti, e alle citazioni continue di altri film come Casablanca, come Scandalo a Filadelfia, che sono un bel dizionario per tutti gli altri ragazzi che magari non li conoscono e se lo vanno a recuperare. E questo è L'altra metà in abbonamento su Netflix. Grazie Boris, appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. Adesso linea alla regia, fra poco torniamo insieme, sarà con noi Ivano Marescotti, novello San Giuseppe, nel film Bar Giuseppe, con anche Nick Nocella, e poi parleremo dei 90 anni di Clint Eastwood. Fra poco con... La rosa purpurea. Peppi, fammelo doppio, va. Devo guidare tutta la notte. Peppi, mi pare che è un doppio, ci vuole pure a te, eh. Ma tu hai figli, la mano non te la danno, Peppi? Che non gliela dai tu? Se paga bene. Ehi, la fame, con i prezzi di Giuseppe, manco la bocciofila. Un bar in una stazione di servizio. Sullo sfondo la prateria della campagna di Bitonto, un po' Irlanda, un po' New Mexico. Su tramonti porpora e fucsia risalta, quasi in rilievo, la scritta di un'insegna, Bar Giuseppe, quasi il quadro di un Edward Hopper pugliese. Giuseppe ha il volto stanco e segnato di Ivano Marescotti. Appena perso la moglie, se la deve cavare con due figli che sono poli opposti. Nicola, Nick Nocella, è un panettiere pacioso e sposato. Luigi, Michele Morrone, è un tossico sbandato, borderline con la crisi di nervi. La situazione precipita quando Giuseppe decide di assumere al bar una ragazza nemmeno ventenne. Si chiama Bikira, è bellissima e con la sua famiglia è scappata da una guerra in Africa. La gente mormora e anche qualcosina di più. Figurarsi quando Bikira chiede a Giuseppe di sposarla. I miei non vogliono più che vengo a trovarti. Sai cosa ha detto mia madre? Hai 18 anni e pensi di cambiare il mondo. Le ho detto, sì, proprio. E a te? Va bene così il mondo. Io non riesco più a stare bene senza di te. Anzi, non riesco più a stare bene. E basta. Sposa. Sono vecchio, tu la bambina. Un vecchio di nome Giuseppe, falegname per passione, una ragazzina di nome Bikira, che tradotto fa vergine, una gravidanza non procurata. È evidente come Giulio Base, qui di nuovo al servizio del cinema dopo i suoi esordi e tanta TV, volesse trasportare nel nostro contemporaneo l'evangelica natività e ragionare su quanto la nostra società sia pronta a confrontarsi con un evento del genere. E la risposta è che no, non siamo pronti, anzi non ne vogliamo proprio sapere. Quante volte il cinema ha provato a interrogarsi? Se oggi tra noi arrivasse Gesù, lo riconosceremmo? Ermanno Olmi, ad esempio, ha dedicato molta parte della sua filmografia a questo tema, dal Santo Bevitore a Cento Chiodi. Giulio Base sposta l'interrogativo dalla sfera mistica a quella terrena. Però il film stenta a trovare un suo centro, un suo perché. La parabola è anche ben raccontata, a parte il sonoro che riduce a mugugno ogni battuta di Marescotti, ma quello magari è il guaio di vedere i film in TV anziché sul grande schermo. Ma non sembra arrivare a compimento, quasi che i fatti fagocitino il messaggio. Però è interessante aver puntato su Ivano Marescotti per questo novello San Giuseppe. Lui, romagnolo di Bagnacavallo, calato nella campagna di Bitonto. Salutiamo allora Ivano Marescotti alla Rosa Purpurea. Ivano, il tuo personaggio è tagliato sulla similitudine col Giuseppe più noto della storia dell'umanità. Cosa rappresenta oggi quel personaggio e perché l'hai accettato? Il mio personaggio è San Giuseppe, ma io l'ho capito leggendo la sceneggiatura. Dopo oltre la metà, quando ho visto che lei rimaneva incinta, si chiama Bikira, il cui nome in Swahili, insomma, nella lingua africana, significa vergine. Io mi chiamavo Giuseppe, faccio anche il falegname, quindi ho capito tutto. Quindi ciò significa che la storia è valida non tanto sul piano del cattolicesimo, ma soprattutto sul piano generale, laico. Io che sono ateo, per esempio, ho apprezzato molto questa storia e ho girato il mio personaggio, ho interpretato il mio personaggio e interpretato questa storia come si interpreta una storia mitologica come quella del Vangelo, che per me corrisponde a Omero, ai personaggi e alle storie dell'Iliade, dell'Odissea, e dell'Eneide, eccetera. per quel che mi riguarda, e quindi è una storia valida sul piano umanitario, mitologica, che ha dato una grande impressione alla storia dell'umanità. Giulio Base ha dato al film un'estetica quasi western, a cui il paesaggio della Puglia si presta perfettamente. Che relazione hai creato con i luoghi di questo film? Le relazioni ancora ancestrali di quella gente ti hanno avvicinato alla verità del tuo personaggio? Sì, il paesaggio della Puglia è stato decisivo. Hanno impiegato molto tempo a trovare questo bar con un distributore di benzina. Il luogo è eccezionale, veramente. È una strada in campagna, un non luogo, dove passano dei camion, dei tir, dei trattori, e lì c'è questo distributore, questo piccolissimo bar che può essere in qualsiasi zona del mondo, è comunque in sud d'Italia, in Puglia, e quell'aria, quell'atmosfera è stata molto importante per caratterizzare il film e anche il personaggio. Un parere, Ivano, sul lavoro con i tuoi compagni di set, soprattutto Nick Nocella e la bellissima Virginia Diop. Sul lavoro dei compagni sul set, sempre un buon rapporto con gli altri attori, tranne qualche raro caso, in qualche raro film dove mi sono trovato male. Io ho fatto però quasi 70-80 film e 30 fiction, per cui può succedere che non ti trovi bene con il regista, molto più raramente con il regista, o con alcuni attori, raramente lo stesso. In questo caso eravamo tutti sempre lì, in questo paesino, in maniera molto amicale. E non conoscevo nessuno di loro personalmente e ho fatto quindi questa conoscenza personale e professionale. Grazie Ivano! Grazie, ciao! Ivano Marescotti è stato qui con noi alla Rosa Purpurea a raccontarci Bar Giuseppe, disponibile gratuitamente su Rai Play, e quindi basta andare su Rai Play, registrarsi, e nella library di film a disposizione gratuitamente c'è appunto anche questo Bar Giuseppe di Giulio Base. Giochiamo di nuovo insieme, seconda traccia del nostro film misterioso di oggi. Ma cos'è? Disinfestano. Chiudi la finestra. Lasciala aperta. Così avremo lo sterminio gratis. Un film che ha segnato a fuoco la scorsa stagione cinematografica. Se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci il titolo e, mi raccomando, il vostro indirizzo. Alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Due Blu-ray per voi. Fra poco, prima della fine della trasmissione, vi sveliamo tutto. So tenderly, your story is nothing more than what you see. Or what you've done, or will become. Standing strong, do you belong in your skin? Just wondering. Gentle now, the tender breeze moans, whispers through my Gran Torino, whistling another tired song. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. Avevi detto così? Vediamo se è vero. Il texano dagli occhi di ghiaccio, l'uomo senza nome ma con due espressioni, l'ispettore Callaghan, insomma, Clint Eastwood compie 90 anni. Nato il 31 maggio del 1930 da padre operaio siderurgico e madre impiegata IBM, il ragazzo di San Francisco ne ha fatta di strada, dalla trilogia del dollaro ai quattro Oscar che popolano la sua bacheca, due per Gli Spietati, film e regia, idem per Million Dollar Baby. E allora facciamocela raccontare questa straordinaria epopea di cinema lunga più di 60 anni dalla nostra Chiara Pizzimenti. Se c'è un punto da cui cominciare a raccontare la carriera di Clint Eastwood, sta in questa musica e nei silenzi che l'accompagnavano. Sono stati Sergio Leone ed Ennio Morricone, con la trilogia del dollaro, a fare una star di questo figlio degli anni della depressione, nato a San Francisco, innamorato della musica prima che del cinema. C'erano stati B-movie e serie TV, poi vennero Uno sguardo, Un poncio e Un sigaro. Il sigaro era la prima cosa, infatti gli misi questo toscano in bocca, che era poi quello più vicino al Virginia da allora. Lui, che non fumava, ne soffrì terribilmente. Infatti per il secondo film disse: caro Sergio, con te qualsiasi film senza neanche leggere il copione, ma il sigaro in bocca no. E io gli dissi: ma perché? Vuoi lasciare a casa uno dei protagonisti del film? È battuta nota, sempre di Sergio Leone, quella che dice che Clint Eastwood aveva solo due espressioni, con e senza il cappello. Spostata negli anni 70 può diventare con e senza la pistola, che questo era l'ispettore Callaghan, la legge come violenza. Don Siegel è il suo regista del poliziesco, come Leone lo era stato del western. Due generi che rinascono e fioriscono, con l'attore che sembrava tutto sguardo e niente recitazione. Fate i bravi, posate l'artiglieria. Che cosa? Se no dovrete fare i conti con noi tre. Con voi tre? Con Smith, Wesson e me. Una settantina di titoli da attore, 40 da regista, con 4 Oscar, con un'impronta personale che si vede da subito, da Brivido nella notte. KRML, Dave Garber. Pronto? Suona Misty per me. David, non pensavo di sconvolgerti, mi dispiace. E ti volevo chiedere scuse per tutto il disturbo che ti ho dato. Lascia perdere, è una storia chiusa. Peccato. Perché questa povera fanciulla è vissuta con un solo desiderio, quello di amarti e di essere amata. Nell'immaginario rimane il texano con gli occhi di ghiaccio, l'eroe del western, ma negli anni è un narratore di storie, un autore che ha costruito una poetica orientata alla semplicità dei classici, ai temi della tragedia antica. Fedele a se stesso, anche nelle contraddizioni, anche nei film non riusciti, la coscienza personale sopra ogni potere, senza politicamente corretto a coprire le magagne. Gran Torino ne è esempio massimo. Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io. Resta in lui sempre quella recitazione minimale, quelle frasi sibilate, sbiascicate, quell'andatura dinoccolata degli inizi, che è cifra dei suoi eroi stanchi, cinici, disillusi della vecchiaia, ma capaci di riscatto, colpa e redenzione, da The Mule a Million Dollar Baby. Signor Dan. Ti devo dei soldi? No, signore. Conosco tua madre. Le potrebbe interessare allenarmi? Non alleno donne. Chi mi ha visto combattere dice che ho grinta. Ragazzina, sappi che avere grinta non basta. È un punto d'onore fra gli attori farsi dirigere da lui, cantore della storia americana e contemporaneamente autore di storie con una portata universale, una riflessione su grandi questioni etiche che rimangono insolubili, da Instinct River agli spietati, persino d'amore come nei punti di Madison County. Questi quattro meravigliosi giorni mi sembrerebbero una cosa sordida e sbagliata. Francesca, tu pensi che quanto è successo a noi succeda a tutti? Non ci sono giri di parole nei suoi film, perché un volto racconta molto di più. È un'estetica minimale che ti fa uscire dal cinema sempre pensando e insieme rimane icona dell'unica vera epica americana, perché se finisci nel vecchio West puoi avere un nome solo. Come ti chiami, pivello? Mark Eastwood. Clint Eastwood. Ma che razza di stupido nome è? Auguri Clint Eastwood, che ritroveremo fra poco dopo la viabilità nelle segnalazioni di film TV, perché sono molti ovviamente i film omaggio trasmessi dalla televisione in chiaro per i 90 anni di Clint. Adesso viabilità, fra poco però un altro grande nome del cinema, quello di Ingmar Bergman, che sbarca su Amazon Prime Video, e poi la soluzione del nostro DVD game, fra poco. Quando arriva la cassa integrazione, dove ritiro i buoni per fare la spesa? Posso sospendere il mutuo e le rette dell'asilo nido? Posso revocare il contratto con il catering del matrimonio? Il coronavirus ha mandato in crisi tutti gli italiani. Mutuo, affitto, bollette, rate e persino la spesa quotidiana per migliaia di persone sono diventati un incubo. Parte così Homo Covid, lo sportello aperto agli ascoltatori, che troveranno le risposte di cui hanno bisogno sul sito di Radio 24, in collaborazione con consumerismo.it. Metteremo insieme i vostri quesiti per dare una risposta unica alle domande di tutti. Un prontuario per famiglie e consumatori, lavoratori, liberi professionisti, commercianti e imprenditori. Un canale a cui affidarsi per cercare il supporto necessario ad affrontare una delle crisi più gravi mai vissute prima dal nostro paese. Scrivete a 2didenari@radio24.it e redazione@consumerismo.it. La Rosa Purpurea. Quarta parte della Rosa Purpurea, che si apre sulle suggestioni di un gigante del cinema di tutti i tempi, diciamo uno dei pochi, pochissimi, che hanno influenzato tutta la storia del cinema a venire. Si tratta di Ingmar Bergman, del quale Amazon Prime Video mette a disposizione 5 capolavori. Perché non mi prendi fra le tue braccia? Ora puoi baciarmi se vuoi. Comincio a credere che noi due ci vogliamo bene, vero? Senti, Monica, io sono pazza di te. E per me ci sei solo tu. La clip che vi abbiamo proposto era tratta da Monica e il desiderio, il primo dei 5 film proposti da Amazon, ma noi ci facciamo raccontare un po' di cose su questo film e anche svelare tutti gli altri titoli da Luca Paciglio di Film TV. Ciao Luca. Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Allora, Monica e il desiderio, ma non solo, mi sembra che Amazon abbia messo lì 5 pezzi forti. Sì, è difficile scegliere un titolo perché i 5 proposti da Amazon Prime sono altrettanti capolavori che tra l'altro appartengono a periodi diversi della produzione del maestro svedese. Si parte con Monica e il desiderio, inno alla vita e ai sogni dell'adolescenza, ma anche apologo sulla sua disillusione, un film semi-sperimentale, girato con una piccola troupe e con una grande libertà espressiva che non a caso affascinò i registi della Nouvelle Vague e Jean-Luc Godard in particolare. Tra l'altro qui proposto in una versione che è quella originale, che ripristina quindi tutte le sequenze che erano state tagliate dalla censura italiana, seguono due capolavori che determinarono la fama e il credito critico per Bergman, ovvero la partita a scacchi tra il cavaliere reduce dalle crociate e la morte in Il Settimo Sigillo e il dolente poetico bilancio esistenziale del professor Borg in Il posto delle fragole. Chiudono due opere che hanno avuto anche versioni televisive più lunghe qui nella loro versione cinematografica, cioè l'impietosa radiografia dello stare in coppia di Scene da un matrimonio, che oggi possiamo considerare una sorta di dramma modello col quale è impossibile non confrontarsi quando si mette in scena una relazione amorosa, e il film Summa, che racchiude ed esalta attraverso lo spettro della memoria tutti quelli che sono i temi che hanno costantemente punteggiato l'opera di Ingmar Bergman, Fanny Alexander, un vero e proprio film testamento, tra l'altro Oscar come miglior film straniero nel 1984. Grazie Luca, a risentirci. Grazie, a risentirci. E torniamo indietro di 7 giorni, vi facciamo riascoltare una clip del nostro game della settimana scorsa. Mi è venuta un'idea. Quale? Facciamoci una mangiata di indiano stasera. La mamma è libera. Sì. Possiamo pagarla con le tue mance. No. Era Sorry We Missed You di Ken Loach. Lo hanno indovinato e lo riceveranno in edizione DVD Maria Novella Bucciarelli di Como e Francesca Bellerio di Melegnano, provincia di Milano, le nostre due ascoltatrici che per prime hanno indovinato il titolo del nostro film misterioso della settimana scorsa. E allora facciamoci raccontare questa edizione in DVD da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Non lavorerà per noi, ma con noi. Eccolo in un franchise per Corriere, uno dei motti del neoliberismo, l'iperresponsabilizzazione del lavoratore, la deresponsabilizzazione del padrone, la solitudine del 99%, la fine del tempo libero al tempo dell'imprendicariato, ovvero il precariato costretto all'imprenditoria di se stesso, a fare meno del tempo libero e degli affetti in nome della flessibilità e di quella frase totalmente insensata del capitalismo contemporaneo che è: siamo tutti sulla stessa barca. Ci volevano i grandi cantori del cinema proletario, Ken Loach e Paul Laverty, per guardare finalmente in faccia lo status quo di troppi lavoratori di oggi. Certo non hanno la mano leggera in questo melo realista, ma anche questa è una forma di rabbia, di lotta contro la giusta misura. DVD con Making Off e incontro con Loach in Cineteca. Giulio, abbiamo fatto ascoltare prima l'omaggio a Clint Eastwood per i suoi 90 anni, abbiamo detto che ci saremmo tornati sopra perché ci sono diversi film che vengono fatti vedere proprio in questi giorni dalle varie TV, anche in chiaro, del grande Clint. Ebbene, noi vogliamo segnalare, anche perché è un film che mi sta particolarmente a cuore, Brivido nella notte, Play Misty for Me, l'esordio alla regia nel lungometraggio di Clint Eastwood nel 1971, un film strepitoso che verrà trasmesso su Iris domenica alle ore 21. Sto cercando di spiegarti che esiste il telefono. Io lo prendo, ti chiamo, tu rispondi e io ti dico: ci vediamo. E io dico: arrivo subito. Brava, un'altra volta, perché non facciamo così? Ok, come preferisci, d'ora in poi. Come la vuoi la carne? Una fan, un conduttore radiofonico, un rapporto che diventa cupo e allucinato. Esordio di Clint Eastwood alla regia, largamente debitore del cinema di Don Siegel, qui attore in un cameo. Per un'opera sullo stalking femminile, tesissima, girata con un grande senso dello spazio e del tempo e quindi del cinema tutto, visto tutto come da un punto di vista maschile, chiuso su se stesso, ma che quantomeno rende credibile il lavoro di quest'uomo che compie 90 anni e che festeggiamo sulle pagine di FinTV con un articolo di Ciotte Silvestri, che lo sdoganarono sulle pagine del Manifesto, un quotidiano lontano dalle idee di Clint, ma spesso non su quelle sugli uomini. Se perdete il film domenica su Iris alle 21, lo potete rivedere il giorno successivo alle 12.50 e fidatevi, ne vale veramente la pena. La nostra seconda segnalazione invece riguarda un film molto recente, uno dei film bellici dei quali si è parlato di più, che arriva in prima TV in chiaro su Canale 5 alle 21.20 di lunedì. C'è Dunkirk. È arrivata la chiamata, dobbiamo andare a Dunkirk. Stai pronto a poppa? Ma che fai? Lo sai dove andiamo? In guerra, George. Sarò d'aiuto, signore. E dei nostri! A terra una settimana, in mare un giorno, in aria un'ora. Sono questi i tre segmenti temporali che Christopher Nolan interseca nella sua straordinaria ricostruzione dell'evacuazione di Dunkirk. Di quella settimana tra la fine di maggio e i primi di giugno del 1940, quando le truppe inglesi in ritirata, intrappolate dai tedeschi di fronte alla Manica, furono riportate a casa dall'intervento della Marina e dalle centinaia di piccole imbarcazioni private accorse all'appello emanato via radio. Non è un film di guerra quello di Nolan, ma è soprattutto un film su una grande emozione collettiva, su gente esausta e in pericolo di vita che aspetta un miracolo e su gente ostinata e silenziosa che va dritta al proprio dovere morale. La ricostruzione di un sentimento prima che di un folgorante episodio bellico. E grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco e alla prossima settimana con le segnalazioni di FinTV. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione. Come sempre l'epilogo equivale allo svelamento del nostro film misterioso di oggi. Abbiamo giocato con il film che ha dominato a livello critico, di pubblico, di Oscar, di premi, di tutti i tipi, di palme d'oro la stagione scorsa, ovvero Parasite. La prossima settimana i nostri vincitori. Noi saremo come sempre qui alle 18 a raccontarvi tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi.